Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e trasmettiamo da Udine. E questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, sigla ovviamente iniziale. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmetteremo fino alle ore 21:30, perciò circa un'ora e mezza. Bene, andiamo ora con l'ascolto di questa band storica dell'anarco punk inglese, band che è nata proprio alla fine degli anni 70, inizi anni 80. Loro sono i Conflict e da un 7 pollici EP del 1985 ci ascoltiamo un paio di brani. Il 7 pollici in questione si intitolava This Is Not Enough, Stand Up the Fucking Fight. Conflict. Un saluto anche da parte mia a tutti voi che siete in ascolto di questa puntata di giovedì 21 dicembre, solstizio d'inverno, di Zardins Magnetics. E il mio compito adesso sarà quello di annunciarvi così i contenuti degli argomenti che cercheremo di affrontare stasera, ed sono questi. Un primo intervento sarà sul come, partendo da, diciamo, dalla realtà quotidiana di Israele e da come ha sviluppato le tecnologie di controllo e sorveglianza, come questo suo ruolo sia diventato appunto guida anche per altri posti, per altri luoghi, e cercando da lì anche a andare a fare dei collegamenti, sviluppare un discorso, provare a fare un ragionamento. Altro secondo, diciamo, argomento di stasera, continueremo, ma insomma con modestia, a quel discorso sulla violenza rivoluzionaria che avevamo iniziato l'altra puntata, però con un approccio assolutamente quasi incompatibile, diciamo, non diciamo incompatibile, però assolutamente di altra natura. E infine daremo delle informazioni, degli aggiornamenti sull'attualità della repressione sui compagni arrestati, eccetera. E quindi fra poco per le nostre parole. Have you heard the news? The dead walk. Do you hear that sound? Do you hear that sound? Like fingers scratching underground. Do you hear that sound? That slamming door. I've fought it all my life and I can't fight it anymore. It's catching up. I'm falling again. Don't move. Shit out of How do you hide from something you have found? You hear that sound? That scratching sound? Is it better to be lost or found? You can't ignore it. You can't talk it away. You can't drink it away. You can't fuck it away. Yeah! Sì, allora, come è stato annunciato, così un po' sulla scia degli approfondimenti che abbiamo proposto lo scorso giovedì, anche come così preparazione, diciamo come chiamata al corteo antimilitarista contro l'industria bellica Leonardo di Ronchi di Monfalcone, continuiamo un po' così ad analizzare il discorso dello Stato di Israele come diciamo così modello diciamo di Stato oppressivo che diffonde la tecnologia dell'occupazione in tutto il mondo attraverso appunto il laboratorio costituito dalla Palestina. Allora lo facciamo inizialmente così grazie a un articolo che è uscito su Infopal e una traduzione di un articolo che poi era uscito originariamente in inglese, che parla di un libro che intitola proprio Laboratorio Palestina, come Israele diffonde la tecnologia dell'occupazione in tutto il mondo, di Anthony Lowenstein. E allora questo l'autore appunto parte dalla lettura diciamo della pulizia etnica in atto a Gaza e anche dalla risposta complice della comunità internazionale, ma per così un po' arrivare al punto insomma di come viene considerato lo Stato di Israele diciamo dalla comunità internazionale, e cioè come lo Stato di Israele viene ammirato come una nazione che si regge da sola e che non ha vergogna di usare la forza estrema per mantenersi tale. E appunto questo Anthony Lowenstein, che è un giornalista, insomma comunque specificamente studia la faccenda dell'occupazione insomma della Palestina da parte dello Stato di Israele. E, appunto fa notare come Israele dipende dalla commercializzazione della sua occupazione militare, cioè ha messo a profitto diciamo oltre ad occupare e a rubare la terra da svariati decenni ai palestinesi, ha anche messo a profitto questa sua tecnica diciamo di occupazione militare e l'ha commercializzata. E quindi attraverso questa commercializzazione dell'occupazione militare Israele ha sostenuto dittature in tutto il mondo ed è tutt'oggi lodato come un esempio degno di emulazione. E vabbè, Lowenstein fa anche l'esempio del presidente ucraino Zelensky, che appunto prende a modello, no, in qualche maniera Israele anche per tradurla poi nello stato dell'Ucraina insomma. Allora, ancora prima della fondazione dello Stato di Israele, il movimento sionista aveva già creato un solido commercio di armi che risaliva agli anni 30, durante gli anni del mandato britannico della Lega delle Nazioni sulla Palestina. Negli anni 50 Israele esportava armamenti e la Elbit, società che produce armi, venne fondata nel 1966. Ad esempio, il genocidio del Guatemala è stato compiuto con l'aiuto di armi israeliane. E non ci addentriamo adesso nelle faccende del Guatemala, comunque diciamo c'è stata questa lunghissima guerra civile tra il 1960 e il 1996 tra il governo e i ribelli che erano sostenuti dalle popolazioni Maya, ma in generale dalle popolazioni contadine. E insomma c'è stato una brevissima parentesi diciamo democratica, e poi gli Stati Uniti, con l'aiuto però di armi israeliane, anche hanno sostenuto un colpo di stato militare, da cui poi è derivato insomma questo attacco genocida alla popolazione. E ecco, poi c'è il discorso delle esportazioni israeliane di armi in Cile. Un argomento, ci dice sempre l'autore di questo testo, è che Israele è determinato a celare a qualsiasi tipo di controllo, mantenendo classificati, quindi secretati, i documenti che lo riguardano. Tuttavia, i documenti statunitensi dimostrano che Israele era uno dei principali fornitori di armi del dittatore di Augusto Pinochet. E fanno anche notare che un cambio di governo in Israele difficilmente avrebbe potuto alterare lo status quo in tal senso. Parlando del caso di David Silberman, un amico ebreo del presidente Salvatore Allende che fu fatto sparire dalla dittatura di Pinochet, Lovenstein scrive di come Israele si rifiutò di rivelare informazioni importanti ai parenti di Silberman. Comunque il Cile è solo uno degli esempi di vendita di armi israeliane alle dittature. Abbiamo appunto della stessa epoca, già detto, Guatemala, poi Paraguay, Argentina e Honduras, che hanno tratto beneficio dalla tecnologia militare israeliana. Sì, allora appunto i gruppi terroristici paramilitari sionisti avevano già effettuato la pulizia etnica della popolazione indigena palestinese, aprendo la strada allo stato dei coloni, e quindi avevano già sperimentato questa cosa, quindi hanno potuto esportare questa modalità, anche la modalità degli squadroni della morte, anche in altri paesi. Ecco, e poi insomma, notando che gli Stati Uniti erano l'unica superpotenza rimasta dopo la guerra fredda, l'autore Lovenstein illustra l'impunità che gli USA riservano a Israele e il modo in cui questa si lega all'impresa coloniale nel suo complesso. Israele ne ha tratto vantaggio soprattutto dopo l'11 settembre 2001, quando ha commercializzato la sua tecnologia per utilizzarla nella cosiddetta guerra al terrorismo. Infatti nel 2008 all'università Bar-Ilan Benjamin Netanyahu affermava: stiamo beneficiando di una cosa, ovvero dell'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono e della guerra americana in Iraq. La guerra al terrorismo dopo l'11 settembre ha rafforzato la pratica decennale di Israele di aiutare gli altri stati a combattere le loro battaglie contro le popolazioni indesiderate, perché appunto la guerra al terrorismo è proprio questa, è la guerra contro popolazioni indesiderate o parti di popolazioni interne, diciamo, che sono invise al regime. Come si conviene ad ogni violenza coloniale, anche Israele ha condotto le sue esportazioni di armi e la sua diplomazia in modo da non porre alcuna contraddizione tra ciò che sostiene una nazione e ciò che invece fa al popolo palestinese. Ad esempio, Israele ha partecipato al genocidio di Myanmar attraverso, in Birmania, attraverso la vendita di armi senza alcuna restrizione, opponendosi al contempo al diritto al ritorno dei rifugiati Rohingya per evitare qualsiasi osservazione sul proprio rifiuto di aderire al legittimo diritto al ritorno dei palestinesi. E arriviamo, diciamo, al discorso delle tecnologie di sorveglianza, più propriamente dette. La tecnologia di sorveglianza è un altro tipo di export disumanizzante che Israele ha testato sui palestinesi e che produce miliardi di dollari di guadagni. La tecnologia di riconoscimento facciale è ampiamente utilizzata nella città di Hebron occupata. Israele svolge un ruolo importante anche in Frontex, che monitora il Mediterraneo per prevenire la migrazione verso l'Europa e fornendo all'agenzia i droni Aeron. Anche in questo caso la tecnologia di sorveglianza viene utilizzata contro popolazioni indesiderate. In questo modo Israele sta diffondendo i propri sistemi di sorveglianza solitamente utilizzati contro il popolo palestinese. In Ungheria e Bulgaria, inoltre, l'idea di costruire muri per tenere fuori i rifugiati è stata modellata sul tipo di recinzione eretta al confine tra Israele ed Egitto, allo scopo di tenere fuori i rifugiati. Quindi, ciò che emerge da questo testo di Lowenstein è la diffusione globale di Israele per quel che riguarda le esportazioni di armi e di tecnologie di sorveglianza, che contraddice la frequente affermazione di Israele di essere uno stato isolato, circondato da vicini ostili. Al contrario, la tecnologia militare israeliana è alla base di una moltitudine di violazioni dei diritti umani e di crimini contro l'umanità commessi in tutto il mondo. Il suo software di spionaggio, ad esempio, ha aiutato i governi a rintracciare e uccidere i dissidenti. Ok, questo erano quindi alcuni brani, diciamo, di questo articolo apparso su Infopal, che parlavano di questo libro, Laboratorio Palestina, come Israele diffonde la tecnologia dell'occupazione in tutto il mondo, di Anthony Lowenstein. Allora, parlando sempre di tecniche di sorveglianza, dicevamo non mi ricordo se giovedì scorso, ma comunque insomma nelle nostre così riflessioni sulla questione del Vicino Oriente e anche parlando di Leonardo, dicevamo che ci sono quattro termini, diciamo, attorno ai quali ruota il sistema di Leonardo e dell'Italia stessa: difesa, sorveglianza, intelligence e confini. Quindi ritorna fuori questo discorso oltre che della difesa, diciamo, militare in senso stretto, e anche della sorveglianza, che appunto è l'altro aspetto, diciamo, l'aspetto della guerra guerreggiata, ma comunque della guerra interna e per la difesa dei confini, diciamo, che gli stati portano avanti. E rispetto a questo discorso qua c'è il discorso dell'intelligenza artificiale, insomma, di come l'intelligenza artificiale viene utilizzata, ma magari mettiamo un pezzo musicale e poi continuiamo il ragionamento. Peace, but live a life of fear about hell and shit, brother. The mass being a Sì, si diceva allora di questo discorso dell'intelligenza artificiale, del suo utilizzo. E, sempre parlando di Leonardo, dicevamo anche che se la guerra di Leonardo, e non solo di Leonardo, insomma, delle industrie belliche, duali, sul modello di Leonardo, se le guerre, cioè le situazioni proprio di guerra aperta, portano un sacco di profitti a queste mastodonti, insomma, industriali, in realtà questi mastodonti industriali hanno profitti assicurati anche in tempo di guerra non guerreggiata, e questo attraverso la guerra ai migranti, perché appunto le tecnologie che producono vengono utilizzate per questa sorveglianza dei confini e contro i migranti. E l'intelligenza artificiale ha un ruolo basilare, insomma, in tutto questo meccanismo di sorveglianza e repressione. Allora, lo scorso 8 dicembre l'Europa ha fatto praticamente un provvedimento, un atto che riguarda l'intelligenza artificiale, e un accordo, ha trovato un accordo gli stati europei che regolamenta, insomma, per un regolamento del riconoscimento facciale dal vivo. E, allora, intanto il settore militare quindi ha posto l'Europa delle restrizioni, diciamo, all'intelligenza artificiale, al suo utilizzo, però in realtà al suo utilizzo anche da parte dei produttori, no? Industriali. In realtà il settore militare è escluso dalle restrizioni di qualsiasi genere rispetto allo sviluppo di sistemi d'arma autonomi e tecnologie decisionali, quindi diciamo quella roba lì è sdoganata. E per quanto riguarda il settore civile, e cioè la guerra ai migranti e il controllo tecnologico verso il nemico interno, diciamo, cioè i soggetti dissidenti rispetto ai vari sistemi, e c'è qualche, diciamo, intoppo, non è tutto liscio, però ci sono tante cose molto allarmanti. Allora, intanto viene stabilito il divieto di riconoscimento facciale pubblico dal vivo in tempo reale, però, e quindi vuol dire che non possono essere utilizzate le riprese, insomma, in tempo reale attraverso i dispositivi che poi vengono convogliate e utilizzate dall'intelligenza, e messe insieme, diciamo, dall'intelligenza artificiale e interpretate dall'intelligenza artificiale. Però questo divieto non vale, quindi c'è un'eccezione se gli stati, insomma, se i sistemi di polizia ricercano determinate vittime oppure persone sospette di crimini, diciamo, e per la prevenzione di atti terroristici. Quindi la soglia di questo divieto di riconoscimento facciale è molto elastica. E in tutto questo discorso degli stati europei, Francia, Italia e Ungheria erano gli stati che erano più favorevoli alla liberalizzazione totale dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Allora, ecco, poi c'è questo atto, insomma, europeo, questo regolamento europeo. E stabilisce anche una limitazione nel riconoscimento facciale pubblico in differita, quindi su filmati e di spazi, però anche qui c'è l'eccezione di reati gravi, senza che però questi reati, la gravità di questi reati venga definita, insomma, precisamente. E poi c'è la proibizione parziale delle operazioni di polizia predittiva. E la polizia predittiva è quella che praticamente prevede i reati sulla base delle caratteristiche dei soggetti che potrebbero compierli, no? Quindi quello che avviene, diciamo, nelle dinamiche inquisitorie, ad esempio verso i prigionieri politici. E allora c'è sì, vengono proibiti da questo regolamento europeo i sistemi basati su un punteggio individuale, quindi non, insomma, questa roba non, è, non passa, però e poi c'è il divieto totale dei sistemi di riconoscimento delle emozioni sui luoghi di lavoro e negli ambienti scolastici, e quindi anche, diciamo, nelle piattaforme di didattica a distanza, nelle aule, nei luoghi di lavoro, eccetera. Però ecco, e qui arriviamo appunto alla guerra ai migranti: è ammesso il riconoscimento emotivo nei posti di polizia alle frontiere, e quindi attraverso questa, cioè, possono applicare, potranno applicare l'intelligenza artificiale per questo riconoscimento emotivo alle frontiere, e in questa maniera qua, diciamo, gli interrogatori, comunque sì, gli interrogatori veri e propri che si svolgono contro le persone appunto considerate irregolari, i migranti irregolari, possono appunto, vedono aumentata la loro invasività attraverso la micromobilità dei muscoli del volto e dello sguardo, perché appunto si tratta di questo, insomma, il riconoscimento emotivo è proprio questa. Ecco, e cos'altro di interessante? No, ecco, poi c'è il discorso delle che c'è un presunto divieto, sempre in questo regolamento, dei sistemi di categorizzazione biometrica, che vuol dire la classificazione in base a genere, età, etnia, credo religioso, insomma in base al vestiario, a simboli che si possono portare, e delle persone riprese. Quindi questa cosa non è lecita, diciamo, in base a questo regolamento. E in generale, insomma, si può dire che queste restrizioni, diciamo, che vengono stabilite nell'uso dell'intelligenza artificiale rispetto ai dispositivi di sorveglianza, in realtà si può dire che servono a legalizzare il riconoscimento facciale dal vivo. Quindi, ma come spesso avviene quando si parla di norme, diciamo, di leggi, le leggi servono a far passare delle cose, non a proteggere, diciamo, le persone dagli esiti nefasti delle leggi. Servono a far passare delle robe, e poi così le difese, diciamo, vengono smantellate solitamente una alla volta. E allora, rispetto ai migranti, si parla proprio di rispetto alle azioni di repressione alle frontiere, che appunto adesso, insomma, c'è con questo patto europeo asilo e migrazione, si presenta uno scenario veramente agghiacciante. Si parla proprio di processo di israelificazione delle società europee. Allora, per dire, questo patto europeo di asilo e migrazione mette i paesi di primo approdo nella condizione di una rigorosissima segnalazione di tutti coloro che entrano, con rilevazioni biometriche ed impronte digitali anche per i bambini da 6 anni in su. Quindi, diciamo che viene spazzato via completamente. Beh, già abbiamo visto che bambini e ragazzi vengono messi spesso vengono messi insieme agli adulti anche nei cosiddetti centri di prima accoglienza, e senza nessun rispetto, insomma, delle caratteristiche delle persone. Ma questo è proprio vengono in mente i bambini, gli arresti dei bambini da parte delle forze armate israeliane in Palestina, e la loro detenzione. Questa roba, insomma, del controllo biometrico già da bambini così piccoli, dà l'idea della strada nella quale appunto l'Europa, la fortezza Europa, sta proseguendo. No, that's not really true. He's not completely bad. E arriviamo al prelievo del DNA. Allora, intanto c'è questa vicenda degli imputati di 19 soggetti, 19 anarchici e anarchici, che tra Bologna, la Lombardia e il Trentino sono, insomma, il giudice ha ammesso il prelievo coatto del DNA per questi compagni e compagne. Praticamente il giudice ha approvato questa schedatura genetica. Allora, il reato era riferito a, insomma, loro hanno trovato un campione genetico riconducibile a una persona di sesso maschile. Però, nonostante questo, quindi poteva essere un solo imputato, invece hanno deciso di questo prelievo del coatto del DNA per tutte le 19 persone, persone appunto, compagni e compagni che avevano portato solidarietà ad Alfredo Cospito, partecipato a presidi, insomma, cose di questo tipo, e anche, ecco, portato solidarietà ai detenuti durante il lockdown. E allora, i reati erano imbrattamento, istigazione a delinquere, però per l'istigazione a delinquere poi è caduta anche l'accusa, quindi comunque reati così. E allora, durante era stato proposto praticamente a queste compagne e compagni di dare il DNA volontariamente, loro hanno rifiutato, e quindi è arrivata questa imposizione da parte del giudice. Praticamente il giudice ha avallato l'allargamento del prelievo coatto del DNA a tutte e tutti i 19 in quanto appartenenti alla galassia anarchica insurrezionalista, quindi praticamente facendo anche delle forzature, dicendo che il prelievo alle persone di sesso femminile verrebbe fatto per grado di parentela, perché magari l'accendino nel quale hanno trovato queste tracce di DNA poteva appartenere a un parente di una delle indagate, cioè quindi delle robe rocambolesche, ma in pratica si può dire che dal reato specifico, diciamo, si passa al contesto politico attraverso questa sentenza questo avallo del giudice, e quindi così a una sorta di banca dati del dissenso politico si potrebbe arrivare. Allora, quindi il prelievo di DNA, che anche questo è una forma di controllo, sì, di schedatura molto grave, molto invasiva, perché riguarda il corpo e quindi la soggettività proprio intima delle persone, ha l'obiettivo anche di così dare una sorta di scientificità, no, al processo e alle inchieste, però è anche questa dimensione di deterrenza e di inibizione, insomma, perché chiaramente mette a dura prova e tra l'altro è molto invasivo da parte per come viene eseguito, insomma è una cosa violenta, non è così come niente. Ecco, e niente, quindi fotosegnalamento, impronte digitali, DNA, ci sono sempre più elementi, diciamo, per queste schedature e si creano dei punti di contatto tra la ricerca bio-nanotecnologica e l'apparato repressivo, perché anche il controllo biometrico, diciamo, ci sono sempre, i costi sono sempre più bassi, no? Mentre una volta queste robe qua costavano molto, adesso invece sì, grazie a queste connivenze con appunto con la ricerca bio-nanotecnologica riescono a farle in maniera più agile. E questo, ecco, no, niente, mi pare, sì, spero di non essermi persa, di essere stata abbastanza chiara. Comunque, questa cosa del controllo biometrico, sì, un'ultima cosa che mi aveva colpito, vabbè, da un contributo, insomma, su Radio Blackout, nella trasmissione Bello come una prigione che brucia, il conduttore parlava del passaggio dall'identità alla autenticazione biometrica, quindi non è più sufficiente l'identità, e anche pensiamo anche al a operazioni non necessariamente, diciamo, giudiziarie, ma anche si parlava di, in questa trasmissione su Blackout, di lavori socialmente utili in cui al posto del registro delle presenze c'è un lettore di impronte digitali e cose di questo genere, ai registri scolastici a riconoscimento facciale, che comunque esiste la possibilità, diciamo. Quindi non è più sufficiente l'identità, dire chi si è, oppure una firma, ma è necessaria una firma biometrica, l'estrazione di dati dal corpo delle persone da identificare. Quindi, insomma, sì, una specie di perfezionamento di una società di varchi, cioè di interruttori. On, off, on, ti faccio passare, off, chiudo. E tutto questo sulla base, appunto, di questa autenticazione biometrica. Bene, un po' sfumiamo, abbassiamo il volume per questa band, così anche la presentiamo, che abbiamo fatto ascoltare dei brani nelle pause durante l'intervento. Loro sono gli statunitensi Crucifix, band storica della narcopunk appunto statunitense, erano californiani. Comunque loro, come ho detto, Crucifix, il loro album datato 1983, The Humanization era il titolo di questo album, particolarità che era uscito per una etichetta inglese, per una costola della Crest Records, che avevano per un periodo una sede anche negli Stati Uniti, ovvero la Corpus Christi. Comunque, Crucifix. Ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre aveva per la testa grandi idee, ma in fondo poi non ha concluso niente. Non devi credere, non vogliono far di te un uomo piccolo, una barca senza vela. Ma tu non credere, no, che appena s'alza il mare, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno che basterà trovare un grande amore e poi voltar le spalle a tutto il mondo. No, no, non credere, no, non metterti a sognare lontane isole che non esistono. Credere, ma se vuoi amar l'amore, tu non gli chiedere quello che non può dare. Ragazzo mio, un giorno sentirai dir dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. No, no, non credere, no, non essere anche tu una chiappa nuvole che sogna di arrivare. Non devi credere, no, no, no, no, non invidiare chi vive lottando invano col mondo di domani. Tuo padre e con lui i suoi compagni non era e non è mai stato un terrorista. E non era e non è mai stato un criminale o, nel più benevolo dei giudizi, un povero fallito. Anche per questo ti lascio ai tuoi giochi e ai tuoi impegni con i versi di una canzone di Luigi Tenco di tanti anni fa. Una canzone degli anni che i genitori dei tuoi coetanei e i ben pensanti come loro definiscono di piombo, quando in realtà erano d'oro. Rivestiti di piombo solo perché sono stati troppo preziosi, perché anche a distanza di tempo qualcuno fosse indotto a rubarli. Ecco, era una conclusione, sì, e poi seguivano i versi di Tenco. Era una lettera ad un figlio scritta da Piero Bassi nel giugno 2016. Questi sono appunto, era la lettera appunto inserita insieme ad altri contributi scelti di Piero Bassi il biondo in un scritti scelti 1995-2018 uscito questo marzo 2023 per le edizioni Colibrì. Vabbè, ci è stato mandato questo volume da un eremita involontario, diciamo così, chi era Piero Bassi. Ci collegheremo in queste considerazioni al intervento su Malatesta che abbiamo fatto la scorsa puntata. Chi era Piero Bassi? Piero Bassi è un compagno nato nel 1949 a Casal Pusterlengo, vicino Lodi, in pianura padana, in Lombardia. Ci ha lasciato il 7 dicembre 2021 ed era un militante delle Brigate Rosse. Proveniva da una famiglia della media borghesia agraria finita in disgrazie finanziarie e partecipò al 68 a Casal Pusterlengo nel movimento studentesco e poi negli interventi, nelle lotte organizzate dai pendolari, appunto essendo nella cintura a quell'epoca c'erano tantissime fabbriche naturalmente a Milano, quindi c'era come c'è ancora del resto, un grosso flusso di pendolari. Forse non sono operai, anzi senz'altro non sono operai al giorno d'oggi, ma comunque appunto all'epoca erano operai e quindi c'erano, nella fattispecie di Casal Pusterlengo, c'erano queste importanti lotte dei pendolari per avere insomma dei servizi adeguati alle loro esigenze, che appunto vennero fuori insieme ad altre questioni nel 68, tramite un altro militante, Arialdo Lintrani, partecipa all'esperienza di Sinistra Proletaria e nel 71 entra nelle Brigate Rosse. Viene arrestato a Robbiano di Mediglia nel 74 con Bertolazzi Ogni Bene, una condanna di 8 anni al processo storico del BR, e quindi fa tutto il ciclo diciamo anche dei carceri speciali. Nell'82, quando c'è la spaccatura, aderisce a Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente. Nell'87, insieme a Sincic e Di Lenardo, scrive un documento critico contro cosiddetta soluzione politica di Curcio e Moretti, e in libertà, diciamo fine pena, nel 91, e va a vivere poi a Giambellino, a Milano, quartiere Giambellino, con Graziella Cattaneo, la sua compagna, che muore un po' prima di lui. La sua libreria, dopo la sua scomparsa, viene donata alla Calusca. Ecco, io ho scelto di questi vari, sono scritti inediti, ecco, di Piero Bassi, però lì ce ne sono anche, tra l'altro, degli ultimi anni, del 17, c'è un contributo su sionismo e antisemitismo, molto legate anche all'attualità, e però si spazia, diciamo, anche sul... diciamo, si parte anche dalle questioni un po' più teoriche, più del marxismo, del materialismo, eccetera, eccetera. Io ho scelto un breve scritto privo di titolo del 1996, e appunto senza titolo, segue appunto queste riflessioni sparse sul materialismo, però è uno scritto indipendente, dove appunto parte, Piero Bassi parte da una domanda parte da un'affermazione di Luigi Manconi, lo conosciamo, ancora in circolazione, era ai tempi, insomma, era di lotta continua, poi appunto di mestiere faceva il sociologo, e aveva scritto in un suo libretto, aveva scritto appunto che tutte le organizzazioni della lotta armata, diciamo, dell'Occidente erano ispirate al quadro teorico bolscevico insurrezionalista, e Piero Bassi si chiede: sì, d'accordo, i bolscevichi, però dove mettiamo Marx e Engels? Cosa hanno pensato Marx e Engels della violenza? Bisogna andare un po' a mettere in questione questo disco, questa affermazione. E il primo che incontriamo in questo percorso è Kautsky, che è un teorico era un teorico dell'SPD tedesco, che ha avuto un ruolo di autorità in materia, viene considerato esponente dell'ortodossia, perché appunto paradossalmente lui era un critico della corrente riformista della socialdemocrazia, e afferma Kautsky che in seguito alle sconfitte subite dai movimenti, siamo nel, diciamo, dopo la internazionale, la Comune di Parigi, vuol dire dopo la Comune, in seguito a tutte queste sconfitte l'idea di imporsi con la violenza fu eliminata dal movimento operaio. E appunto qui in questo articolo Piero Bassi, diciamo, fa una rassegna di vari fraintendimenti di questo Kautsky, e tra l'altro cita anche un rimprovero di Engels agli anarchici in merito alle insurrezioni spagnole dopo appunto la prima repubblica spagnola nell'873, gli anarchici fecero l'errore di non impugnare le armi, ma tentare appunto di rovesciare il governo borghese con il blocco totale del secolo sciopero generale, e qui appunto Engels interviene dicendo che fu un errore questo. Ecco, poi appunto questo è quello che il testo di Engels, invece l'interpretazione di Kautsky è diversa, ribadisce questo discorso della partecipazione non violenta ai cambiamenti. E appunto l'SPD teorizza una tattica in ogni modo pacifica contraria alla violenza, dice Piero Bassi. Sono appunto tutta una serie di questioni filologiche adesso interne del dibattito, possiamo riassumere, diciamo, del movimento operaio. In realtà quali sono appunto le funzioni, il ruolo, il significato della violenza per i marxisti? La violenza ha una funzione rivoluzionaria, la violenza è levatrice di ogni vecchia società gravida di una nuova, la violenza è strumento con cui si compie il movimento della società, La violenza infrange forme politiche irrigidite e morte. Li troviamo altre, cioè due, saltando adesso così, saltiamo su due celebri testi, Manifesto del Partito Comunista, dove dicono: il proletariato distrugge violentemente i vecchi rapporti di produzione, e nella critica al programma di Gotha, nella Repubblica Democratica si decide con le armi l'esito della lotta di classe. Quindi si vede che non è che diciamo c'è una progressione da forme violente a dialettiche, non so, paraistituzionali, no? Questo è quanto appunto hanno definito Marx e Engels. Con un salto si arriva a Lenin, perché Lenin appunto è quello che ha un po' tirato le fila e ha dovuto sistemare un po' la questione in merito anche alla rivoluzione del 1917, no? Quindi c'era una necessità di difendere il marxismo rivoluzionario dal revisionismo, appunto, che era più forte nell'Europa occidentale. E qui direi che abbiamo una citazione che vado a cercare. Ecco. Due citazioni, sempre però di Lenin. Nell'opera Gli insegnamenti dell'insurrezione di Mosca, egli scrive infatti che nulla è più limitato dell'opinione di Plekhanov, ripetuta da tutti gli opportunisti, secondo cui non si sarebbe dovuto iniziare uno sciopero intempestivo, non si sarebbe dovuto impugnare le armi. Al contrario, si sarebbero dovute impugnare le armi con maggior decisione, energia e spirito offensivo, si sarebbe dovuto spiegare alle masse l'impossibilità di limitarsi a uno sciopero pacifico e la necessità di condurre una lotta armata intrepida, implacabile. E, seconda citazione, né il marxismo e l'insurrezione. La menzogna opportunistica secondo la quale la preparazione dell'insurrezione e in generale il considerare l'insurrezione come un'arte è blanchismo è una delle peggiori e forse la più diffusa delle deformazioni del marxismo nei partiti, virgolette, socialisti dominanti. Ultima citazione, sempre da Lenin. E comunque la guerra partigiana, il terrorismo di massa ci aiuteranno indubbiamente nel momento dell'insurrezione a insegnare alle masse l'impiego di una giusta tattica. La socialdemocrazia deve ammettere questo terrorismo esercitato dalle masse, includerlo nella sua tattica, organizzandolo e controllandolo, si intende, subordinandolo agli interessi e alle condizioni del movimento operaio e alla lotta rivoluzionaria generale. Boh, insomma, la questione per Lenin è che appunto collocare l'insurrezione come una fase, cioè è solo una fase, ma cioè però è una fase di un processo, nel senso che c'è un legame, c'è un nesso tra situazione, diciamo, di quasi guerra civile, situazione insurrezionale e lotta armata. In quel momento lì c'è scatta una legittimazione, e quindi da un insomma ogni marxista ha il dovere di aderire al partito combattente in quella situazione lì. Ultimo passaggio da Lenin, prima abbiamo parlato di Marx, Engels, poi di Lenin, adesso passiamo alle Brigate Rosse. Per le Brigate Rosse la teorizzazione leninista viene mutuata dal piano tattico al piano strategico. Qua sono anche termini un po' rognosi, diciamo, no, rognosi, nel senso sono anche concetti che questi autori, diciamo, sono per loro sono sono molto loro non hanno nessuna, diciamo, esitazione a utilizzarli, mentre magari per noi non sono così facili, intuitivi. Ecco, comunque le BR passano appunto la teorizzazione leninista dal piano tattico a quello strategico. Cosa vuol dire? Che non c'è più distinzione tra politico e militare, ovvero l'intervento militare per le BR è immediatamente politico, cioè non c'è più soglia, non c'è più una soglia, e per cui a un certo livello, appunto, anche qua c'era l'elenco, non c'è più una come dicevo, una soglia tra situazione di pace e situazione di guerra, no? Ovvero tutte, ecco, perché fa un elenco, torniamo a Lenin un attimo, prima gli scioperi economici operai, poi le dimostrazioni politiche degli operai e degli studenti, le rivolte contadine, l'inizio degli scioperi politici di massa, combinati con dimostrazioni, lo sciopero politico di tutta la Russia con episodi locali di lotte sulle barricate, le lotte di massa, le barricate, l'insurrezione armata, la lotta pacifica parlamentare, le insurrezioni parziali di contadini. Siamo nella fase fino al 905, no? La prima rivoluzione, sì, la tentata rivoluzione del 905. Sì, il succo del discorso è, per Lenin, sì, ok, non è una reazione alla violenza della borghesia, no? L'azione armata è uno dei vari, diciamo, è un prodotto di inasprimento della crisi politica. Per le BR invece, appunto, siamo arrivati al fatto che il potere politico può essere conquistato solo attraverso l'intervento armato dell'organizzazione, e appunto le due fasi sono un unico processo rivoluzionario, quella politica e quella militare, no? La guerra, appunto, è il modo stesso di far politica del proletariato rivoluzionario nell'epoca dell'imperialismo e delle multinazionali, dicevano le BR. Questo è appunto il contributo di questo compagno, Piero Bassi, nel lontano 1996, un intervento appunto per chiarire come appunto, secondo lui, il discorso bolscevico insurrezionalista non fosse appunto il discorso appunto della lotta armata non fosse semplicemente ascrivibile alla teoria bolscevica insurrezionalista, ma facesse parte di tutto il patrimonio del movimento rivoluzionario comunista. Bene, il brano, ora che è finito, faceva parte di appunto di questa band, The Bikini Kill, che abbiamo un po', probabilmente non si ascoltava molto bene del tutto, comunque si percepiva che erano in sottofondo durante l'ultimo intervento. E comunque questo qui dei Bikini Kill, cioè delle Bikini Kill, tra l'altro è un album dove è uscito recentemente e vengono raccolti tutti i loro singoli usciti in passato. Ora invece passiamo a questa proprio recente uscita di una band inglese, comunque band inglese con credo cantante di origine ispaniche, anche perché i brani sono tutti intitolati e sono in lingua appunto spagnola. Comunque loro sono i Traidora e questo è il loro proprio recente album uscito qualche poche settimane fa, pochi mesi fa, che si chiama Un cuerpo translieno de odio, Traidora. Ecco, e allora ritorniamo in voce con siamo quasi agli sgoccioli della trasmissione. Io volevo fare un invito, cioè invitare a continuare a scrivere ad Alfredo, al compagno Alfredo Cospito, perché ci sono grossi problemi nel non gli viene consegnata la posta e addirittura la posta scompare. Quindi nello specifico la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, che si è presa a cuore questa questione, invita appunto a scrivere al compagno lettere, cartoline, qualsiasi cosa, però inviando tramite raccomandata, in modo che la posta sia tracciabile. E quindi il tagliando e il codice di tracciabilità delle missive permettono di conoscere lo stato della spedizione e intraprendere casomai l'iter burocratico per lo sblocco della corrispondenza. E quindi appunto i compagni e le compagne della Casa Antirap delle Alpi Occidentali ci invitano a scrivere ad Alfredo e però a inviare a loro scansione o foto dei tagliandi appunto delle spedizioni, in modo che poi la Casa Antirap le raccoglie, le invia agli avvocati di Alfredo e gli avvocati di Alfredo faranno i ricorsi per recuperare quanto più posta possibile. Allora io ricordo l'indirizzo di Alfredo, Alfredo Cospito, presso la casa circondariale di casa circondariale Bacchiddu, strada provinciale 56 numero 4, località Bancali 07100 Sassari. E invece i tagliandi, insomma i codici delle spedizioni vanno inviati, le scansioni vanno inviate all'indirizzo mail cassantirepalpi, tutto attaccato, @autistici.org. E bene, per questa sera io vi saluto e lascio per i contatti la voce alla regia. Ecco, così abbiamo ascoltato praticamente tra la presentazione precedente, in precedenza, nel sottofondo e anche adesso tutto questo album, cioè scusate, no, dico album, ma in realtà è un 7 pollici, un vinile 7 pollici uscito nelle scorse settimane da questo, da questi Traidora, che tra l'altro ho presentato come gruppo, ma in realtà è una One Woman Band, e il titolo è un corpo transalieno de odio, come detto tutti i brani sono cantati in lingua ispanica, ma comunque la sede o comunque dove vive questa ragazza, donna o quel che è, in quel di Londra, in England. Bene, siamo ormai giunti al termine, agli sgoccioli di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che come ogni giovedì trasmette in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30 questa trasmissione. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ricordo anche i nostri contatti, chi volesse scriverci tramite posta elettronica può farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, oppure potrebbe scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche quelle delle volte scorse, dei giovedì passati, può andare a riascoltare su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Che altro dire? Siamo noi salutiamo chi ci ascolterà anche domani sulla web radio Radiazione dalle ore 17 di venerdì. Ora siamo proprio agli sgoccioli. Vi lascio con questo ultimo, forse uno o due brani per questa band di Gorizia, che fece uscire nel 2008 questo 7 pollici. Loro sono gli OSDS, che non è altro che l'acronimo di Our Souls Don't Surrender. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.